Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ecco, ora è il momento di dare il colpo finale e sparare tutto. O meglio, sarebbe il momento. Ma il mese di allenamenti solo per la staffetta malignamente presenta il suo conto. Improvvisamente i polpacci si riempiono di acido lattico. Le gambe diventano due pezzi di marmo. Non riesco più ad alzare le ginocchia come prima. E l'assetto di corsa perfetto lascia il campo ad un arrancare, da finale di maratona alla Dorando Petri. Mi chiamo Guglielmo Beraglia, ho 50 anni. Vivo a Nocera Interiore, provincia di Salerno. Sono sposato e ho due figlie. Che esiste una categoria di persone che sono fortissime con gli inizi. Cioè che partono sempre forte, che all'inizio quando sentono una notizia oppure quando cominciano a fare qualcosa sono veramente carichi. Credo che siano un po' gli entusiasti, no? Sapete che c'è una categoria di persone che sono proprio particolarmente entusiaste della vita in genere, per cui appunto se iniziano a fare una cosa oppure se vedono, che so, un film, uno spettacolo, sentono una canzone, sentono una battuta, sono molto più su degli altri. Poi magari capita che quegli eccessi di entusiasmo, a quegli eccessi di entusiasmo corrispondono poi degli eccessi di down, questo non lo so. Comunque insomma esistono delle categorie di persone che sono particolarmente forte proprio all'inizio, no? Con le partenze. O che forse invece no, forse esistono delle categorie di cose che sono giuste e sono sbagliate per certe persone, e quindi semplicemente se sono giuste si parte subito forte e poi però si tiene con la forza, se invece sono sbagliate si parte forte e poi si scende. Non lo so se siano categorie di persone particolarmente entusiaste o semplicemente categorie di cose giuste o sbagliate. Però di fatto a tutti è capitato di cominciare con qualcosa e cominciare ma veramente carichi, veramente che questa è la cosa della mia vita, che fosse un corso di yoga o di un corso di box o un corso di, come si chiamano quelle robe che fanno Margherita, le cose che fanno le donne in palestra, che hanno, sono degli acronimi tipo, no, quelle robe che sono acronimi tipo GAG, gambe addominali e glutei. Tu fai quella roba lì? No, l'hai solo sentita. Certo, è come il Grande Fratello, nessuno l'ha visto, però tutti sanno tutto. 349-238-6666, l'acqua gym. Se siete tra queste categorie di persone, se siete abituate a partire fortissimo e poi piano piano qualcosa comincia a non funzionare, a girare male, oggi è la puntata per voi. Vale con i viaggi, ad esempio, anche. Che i primi giorni dei viaggi, ragazzi, guarda, io devo vivere qua, io devo vivere in questa città. E poi piano piano magari un pochettino di entusiasmo passa, sempre con l'entusiasmo, con i disegni anche. Quando mi ricordo che quando facevo, come si chiamava, educazione tecnica, era educazione artistica che si disegnava, partivo forte proprio all'inizio, magari con lo schema oppure con i primi schizzi, e poi era un disastro. Guarda, faccio un esempio. Alessandro, vabbè, questo è proprio l'esempio classico. Io parlo dell'inizio di una vita di coppia. L'inizio è niente perché tutto è nuovo e tutto è eccitante. Bisogna poi trovare l'equilibrio con l'altra metà. Una volta trovato, ogni giorno sarà un nuovo inizio di qualche cosa. Boh, questa non l'ho capita bene, però facciamo che va bene. Tutto finisce quando non si cerca più di iniziare qualcosa. Dai, siamo ancora tutto su sto inizio, Alessandro. Me la riscrivi per piacere questa. Voi siete qui, @radio24.it. Loretta, tantissimi anni fa, quando ancora andavo alle elementari, quindi data la mia età, mi riferisco alle scuole anni 60, dove ancora si usava il calamaio e l'inchiostro, quando la mamma mi comperava il quaderno nuovo ero contentissima e piena di buoni propositi. Le prime pagine del quaderno sembravano miniate, nel senso che delle miniature, e mi... lo spiegavo a me ovviamente perché non l'avevo capito, e mi impegnavo negli esercizi di calligrafia. Non c'era nemmeno una macchiolina e io mi destreggiavo con quell'altro oggetto cult che era la carta assorbente. Curavo i miei pennini a torre come se fossero i figli miei. Le cose cambiavano verso la metà del quaderno, i chiaroscuri diventavano più affrettati, le pagine non erano più così immacolate, l'ultima pagina era decisamente trascurata e velocissima. Ecco, questa è una bella metafora, un bel quaderno che all'inizio è tenuto benissimo e alla fine è un disastro. Oppure un diario che ha le prime pagine scritte e le ultime completamente bianche. 349-238-6666. Ero partito bene, ero partito forte. E poi non so neanche cosa è successo, ma qualcosa è andato storto. Questo vale in assoluto per un sacco di cose che ci capitano durante la vita quotidiana e vale soprattutto per lo sport. Caffè Caserta, domenica 5 giugno 1977. Stadio Comunale, ore 18. Sono sui blocchi di partenza della gara dei 200 metri piani, campionati regionali allievi a squadre di atletica leggera. Questa è la gara che adoro. E lo è pure nella corsia che preferisco, la terza. Però purtroppo è anche la gara in cui non mi sono potuto allenare nell'ultimo mese. Il regolamento della competizione prevede che ogni società possa schierare fino a 4 atleti in ogni gara e che ogni ragazzo possa completare al massimo 2 gare. Una al sabato e l'altra la domenica. Il migliore di ogni squadra in ogni gara raccoglie punti secondo il tempo o la misura ottenuti e li porta in dote alla classifica della propria squadra. Nel momento in cui sto per partire per i 200 metri siamo in testa, ma non di molto, e ogni punto è oro colato. Io non sono il più forte tra i velocisti della mia società, ma mi alleno con serietà e per questo hanno scelto me. I 4 compagni più forti hanno fatto i 100 metri il giorno prima, mentre io ho fatto la 4%, la staffetta. È su quella gara che per oltre un mese mi hanno fatto allenare, facendomi trascurare quasi del tutto la preparazione sui 200. Ma sono solo parole, ora, perché adesso sono sui blocchi di partenza e la mia è l'ultima batteria e i miei compagni non hanno combinato niente. Insomma, sono rimasto solo io, che adoro quella gara, che vivo nel mito di Mennea, ma che non sono pronto per niente. No, perché qualche anno dopo ebbi un incidente a un ginocchio, per anni diciamo, me lo sono trascinato, poi ho ripreso a giocare un po' a calcio, un po' a tennis, ma poi insomma ho il tempo, un po' la mancanza di fondi, ho dovuto un po' lasciar perdere. Ad un certo punto ho dovuto scegliere se fare sport io farlo fare alle ragazze, ho preferito farlo fare alle figlie. Sono concentrato. Anche se ci sono giudici, avversari, pubblico, non sento niente. È come se fossi isolato da tutto e da tutti. A stento sento il pronti del giudice e lo sparo non ricordo nemmeno di averlo udito, l'ho solo intuito. Eppure scatto, come mai prima e mai dopo fatto in vita mia. Come una belva ferita che deve raggiungere la tana per salvarsi la vita. Prendo la curva in modo perfetto, correndo in totale equilibrio sulla striscia bianca, senza mai rischiare minimamente di invadere l'altra corsia ed essere squalificato. Eppure affondo con rabbia i chiodi in quell'atroce superficie della pista, un misto infame tra cemento e sintetico che chiamano Rubcore. Non vedo gli avversari, non potrei, visto che in pochi metri sono tutti alle mie spalle. Anche quelli che per il naturale disegno della pista sono partiti diversi metri avanti a me. Le gambe girano da sole, mi sento potente. Sono sul rettilineo e ho anche il tempo di gettare l'occhio verso la tribuna, dove vedo Tonino, il mio allenatore. Sembra una statua, il cronometro in mano e lo sguardo stravolto dallo stupore. Ecco, ora è il momento di dare il colpo finale e sparare tutto. O meglio, sarebbe il momento. Però il mese di allenamenti solo per la staffetta malignamente presenta il conto. Improvvisamente i polpacci si riempiono di acido lattico e le gambe diventano 2 pezzi di marmo. Non riesco più ad alzare le ginocchia come prima e l'assetto di corsa perfetto lascia il campo ad un arrancare da finale di maratona all'Adorando Petri. Il termine non penso che sia radiofonico, ma fa molto incavolare. Se gli ultimi 20-30 metri, a parte la sensazione del corpo che non rispondeva più, che già è abbastanza fastidiosa perché comincia con un peso ai polpacci ed è un peso che poi fare man mano verso il quadricipite, insomma senti le gambe che diventano dei mattoni praticamente, ma è che hai tutto il tempo di pensare, porca miseria, se mi fossi allenato di più su questa gara non sarebbe succedendo quello che sta succedendo. Dalla corsia alla mia destra sento il rumore dei chiodi di un tizio che mi supera facilmente e io non so cosa fare. E poi da sinistra ne spunta un altro. Il traguardo mi sembrava lì e invece è lontanissimo e io devo resistere. Soffro e ho paura, ma alla fine ce la faccio a raggiungerlo. Con rabbia, più che altro. E sono distrutto. Sono arrivato terzo, ma ho comunque fatto un tempo peggiore dei miei compagni. 2 ragazze della squadra si avvicinano per complimentarsi. Una mi dice: Guglielmo, peccato, però non ho mai visto nessuno partire in quel modo. E io penso che, già, manco io. E alla fine della giornata siamo campioni regionali, ma io non riesco a godermela. Sul pullman che ci riporta a Napoli, Tonino viene da me perché mi vede giù e mi dice che se mi alleno come so fare, posso diventare uno bravo. Io non ne sono convintissimo, ma voglio dargli ascolto e l'inverno successivo darò l'anima per prepararmi come vuole lui. Forse Tonino aveva ragione, ma non lo scopriremo mai, perché mi perderò in piccoli infortuni, difficoltà di allenamento dovute agli impianti e sicuramente per un po' di mancanza di convinzione. Sono passati 34 anni e devo ammettere che spesso rivivo quei momenti, passo passo, pensando a cosa poteva accadere se avessi retto fino alla fine, o cosa non sarebbe comunque successo. Io ero lì, ma vorrei tanto esserci adesso, con l'energia di allora, ma con la consapevolezza e la cattiveria di oggi. All'inizio tutto funziona alla perfezione. All'inizio ogni cosa è meravigliosa. All'inizio i colori sono belli e gli spazi sono grandi. All'inizio non è mai caldo e non è mai freddo. All'inizio sei entusiasta, se sai esserlo. All'inizio è tutto come deve essere. E chissà perché. Forse perché in fondo non è ancora successo niente. Sto parlando dell'inizio di qualsiasi cosa, di una storia d'amore, di un viaggio, di un'impresa qualsiasi. Per me è sempre stato un po' così. Parti bene, parti alla grande. E poi non si sa. Non sai se l'innamoramento diventerà amore. Non sai se dopo il calcio d'inizio la partita andrà avanti così, in quel modo. Non sai se dopo l'antipasto arriverà anche una buona carbonara. O se dopo il decollo non ci sarà una turbolenza. Quante volte mi è capitato di bloccarmi sul più bello e di vedere tutte le mie aspettative deluse? Molte volte. Eppure ogni volta ci ripenso e mi dico, però ero partito così bene. E non è che io sia un ottimista di natura, no, al contrario, è che secondo me capita un po' a tutti che ci si imbarchi in qualcosa con entusiasmo all'inizio e che poi le cose prendano una piega diversa, che poi entusiasmo non significa incoscienza, cioè non parlo di quei pazzi che vogliono mettere una pianta sul balcone e quindi comprano una marea di terra, lavanga, diversi tipi di concime, vasi, tubi per l'irrigazione e serre artificiali. No, quelli esagerano. No, io parlo di quando l'aereo sta rullando sulla pista e tu stai per andare su un'isola greca, ad esempio, e sei felice perché tutto sarà bellissimo. Ecco, quella cosa secondo me non capita solo a me, è che però ci sono volte in cui quella partenza lì ti frega, perché ti promette qualcosa che non può mantenere, perché non si sa come vanno poi le cose veramente. Una buona partenza non è per forza un buon segno. Ne posso portare diversi di casi che confermano questa teoria, come la vacanza in barca nel 2005 alle Baleari, iniziata benissimo, coppie innamorate, sole, tanta amicizia, proseguita con discussioni su dove ormeggiare, quanto pane comprare e finita con corna e una mareggiata tipo Capo di Buona Speranza. Oppure il corso di judo, anni fa, lo feci che avevo 9 anni. Tutto felice mi ero comprato il kimono, la cintura bianca, ero pronto a imparare a difendermi, a diventare un uomo. Mi ricordo la prima lezione magnifica, un sacco di parole, i maestri che si battevano per noi. E poi, dalla seconda volta in avanti, è stato tutto un oggi impariamo a cadere, che finiva che eravamo sempre tutti per terra, e mi faceva pure male la testa. Quindi dopo un mese ho detto ai miei che non mi divertivo più, e basta là. Inizi promettenti ne ho avute anche di molto seri, come la prima volta che mi sono iscritto all'università, ad esempio. Ero sicuro che avrei fatto l'avvocato, sicuro, ero sicuro che avrei difeso gli innocenti, quindi mi sono iscritto a giurisprudenza. Primo esame alla grande, 29, vabbè, per me alla grande. Ci avevo messo tutta la mia energia, tutto l'entusiasmo, poi non ne ho più passato manco uno. Poi cosa c'è? Ah, poi c'è il romanzo, quello che ho cominciato a scrivere anni fa, con un sacco di passione, e filava via liscio, fino a pagina 15, 20 più o meno. E adesso è ancora lì, che aspetta qualcuno che ci metta mano. Ma anche solo il weekend, pensate all'ultima giornata di sci. Quella che sulla prima seggiovia sei felice, ti guardi in giro come se fosse la prima volta che vedi le montagne. E dopo un'ora ti sei rotto, speri che il tempo passi in fretta. Intanto ti chiudi in un rifugio, bevi sgroppini o nel mio caso cioccolate calde, ma la stessa roba. Ma anche quando ho deciso di dipingere casa, sono salito sulla scala, ho dato il primo colpo di pennello e mi sentivo Michelangelo. E dopo un paio d'ore ero distrutto e ho chiamato Igor, il mio amico moldavo che mi ha salvato, per cui quella roba lì la fa di mestiere. Potrei andare avanti una giornata, ma direi che basta così. E lo capisco molto bene Guglielmo, che è partito a razzo sperando che i 200 metri fossero un po' più corti e che è finito a pezzi sul traguardo. Ogni tanto è veramente modaiolo Bonini quando mette gli Arcade Fire, Lo dico giusto perché oggi non c'è e quindi posso approfittarne. Ogni tanto è veramente su di moda Bonini. Comunque tutti i brani che mettiamo li trovate sul sito di Radio 24, alla pagina Voi Siete Qui. Questo era Ready to Star degli Arcade Fire, che molti conosceranno perché negli ultimi mesi sembra che esistano solo loro. Sembra che esistano solo gli Arcade Fire. 349-238-6666. Io ho iniziato al momento smesso, ma conservo il materiale di snowboard, windsurf, bici da corsa, mountain bike, bici da corsa, karate e fare sempre altro di nuovo. Sono solo sprint. Federico, bella questa definizione. Sono solo sprint. Non era solo sprint, Guglielmo, però c'era gran parte della sua corsa era nello sprint, mi pare di capire. Pronto, Guglielmo? Pronto, buonasera. Ciao, come stai? Insomma, non c'è male. Tu eri forte nello sprint, però perché ti allenavi per i 100 metri? No, no, in realtà io per la staffetta? Sì, no, vabbè, là fu una situazione un po' particolare. Io ero un discreto 200 metrista, sicuramente avrei potuto fare di meglio e il mio allenatore avrebbe voluto farmi fare i 400. Ah, ok, 400... quindi tu ti eri preparato per i 400? No, tu ti eri preparato per la staffetta? Sì, io ero preparato per la staffetta in quella situazione lì. E praticamente invece nell'inverno successivo l'allenatore, vedendo quella gara, disse: tu potresti fare i 400 tranquillo, solo che presupponeva un altro tipo di preparazione che io non potevo fare in quel periodo. E Guglielmo, e come è finita? Cosa fai nella vita adesso? Io adesso sono rappresentante. Di che cosa? Di complementi di arredo, mobili e cose di questo genere. Sai che il rappresentante è un mestiere che erano tipo 5-6 anni che non lo sentivo più. E tanto è aumentato il lavoro del consulente quanto... Adesso si dice agente di commercio. Ah, ecco perché. Ah, ok, perfetto. È solo una questione di linguaggio. Perché dicevo, mi sembrano aumentati a dismisura i consulenti di qualsiasi tipo. E invece... Ah, sì. Anche tu sei un po' consulente. Ma, no. Insomma... no, non direi tanto. Ma scusami, no, quindi tu vai in giro con dei pezzi di complementi d'arredo? Con dei cataloghi. Ah, ok, cioè giri in macchina? Giro in auto, sì, giro in auto. Andare in giro con i pezzi di complementi di arredo sarebbe un po' difficile portare un divano. Beh, però magari, magari giri con un furgone, poi è un'idea girare con un furgone. Venga, venga a vedere che cosa abbiamo. C'è chi lo fa. Davvero? Sì, cioè che porta in giro i mobili? Portano in giro dei piccoli mobili e fanno quella che tecnicamente viene definita la tentata vendita. Cioè hanno una bolla d'accompagnamento, fanno vedere il pezzo e magari riescono a venderlo sul momento. Ah, ok, tentata vendita l'avevo già sentito, sono completamente ignorante, però l'avevo già sentito. Cioè non è una roba nuovissima. Una roba è raro, non è una cosa molto diffusa, però c'è questa cosa qui. Senti, invece torniamo un attimo al tuo passato da corridore, perché io una volta lessi un'intervista a... oddio, come si chiama? Il figlio del vento, dai, quello... A Lewis. A Carl Lewis, esatto. Che parlava proprio dello start, cioè della partenza, no? Del ready, go, cosa si dice? Sì. Vabbè. Lui diceva che non aspettava il via. Cioè, al pronti, lui contava fino a tre e partiva. È una cosa che oggi non si potrebbe fare più. Perché quando correva Lewis c'era un regolamento che ti permetteva di fare una falsa partenza e poi c'era comunque una seconda possibilità. Oggi alla prima falsa partenza uno viene squalificato. Quindi, giusto, che è quello che è successo a Bolt un mese fa, più o meno, giusto? Esatto, ma esatto. Quindi di fatto uno sta lì e aspetta, ma pensi sta a qualcosa? Lì, allora, diciamo che quando correvo io c'era uno studio dei vari starter, perché più o meno erano le stesse persone che si alternavano, quindi uno più o meno sapeva che quella persona lasciava un tot secondi tra i pronti e lo sparo, che però non era una scienza esatta comunque, insomma. E dove si guarda mentre si aspetta? Cioè quando sei sul guardi a terra? A terra, anche perché la posizione non ti permetterebbe di guardare altrove, insomma. Neanche di fronte, ovviamente, perché sarebbe scomodo. Ti esponi a problemi cervicali notevoli se cerchi di guardare di fronte. Senti, quando è stata l'ultima corsa che hai fatto? L'ultima corsa vera, intendo dire. Nel 79. Ah, vabbè, due anni dopo il racconto. Due anni dopo, perché poi ebbi una serie di problemi fisici, tendiniti e cose varie, per cui man mano continuavo ad allenarmi, però poi non riuscivo ad andare in gara. Senti, è un'altra cosa che mi incuriosisce tantissimo. Che cosa dice un allenatore a un atleta che deve semplicemente correre contro il tempo o contro se stesso, no? Cioè non ha degli schemi, non è il basket o il calcio. Che cosa ti dice un allenatore prima di scendere in pista? In realtà il discorso è questo, che in quei momenti non c'è un contatto vero con l'allenatore. Ah, ok. Quindi sei tu che è lontano. Hai buttato l'occhio e l'hai visto impietrito come una statua col cronometro. Tra l'altro, poveretto, è una persona che purtroppo non c'è più, però era anche non altissimo, quindi era anche difficile distinguerlo tra la gente, ma era talmente visibile la sua espressione statica. Sì, che io ebbi tutto il tempo di vederlo, poi oltretutto non è che la tribuna fosse piena di folla, insomma. Lo immagino. Però, Guglielmo, senti, ti devo salutare, ti ringrazio moltissimo. Dove ti trovi? Sei in macchina, immagino, stai lavorando. Sì, stavo girando per lavoro, mi sono fermato per attendere la vostra telefonata. Dove sei esattamente? Adesso sono in una zona che si chiama Rocca Piemonte. Ma nel Salernitano? Nel Salernitano, sì. Grazie ancora, Guglielmo, un abbraccio e in bocca al lupo per tutto. Voi siete qui. Voi siete qui. Ci sono due illustrazioni, non una oggi, sulla pagina di Voi siete qui, sul sito di Radio 24. La prima è di Luca Cattaneo, la seconda è di Valentina Cervasio. Raccontano di corsa, di gare, di sport. Sono molto belle. Entrambi hanno un bellissimo tratto, se ha senso quello che sto dicendo, parlando di tratto. Ci sono cronometri, ci sono visi, ci sono numeri, ci sono persone che corrono. E poi c'è una frase, che è una frase, che è un pensiero di Guglielmo durante la gara, che è: non potete farmelo, è la mia gara. 349-238-6666. Allora, grazie a C Puntato, che mi spiega che cosa si dice esattamente in inglese, ma forse anche nelle gare italiane d'atletica. Non è pronti partenza via, che è quello che si dice di solito quando si hanno 12 anni, ma è ready, steady, go. Caro Matteo, ho comprato finalmente la macchina fotografica che desideravo. Ero così contento che ho tenuto la scatola sul comodino per giorni, aspettando di avere il tempo di disimballarla con calma. Ma un manuale d'uso da 270 pagine mi ha fatto perdere ogni entusiasmo. È ancora là sul comodino da un mese. Ciao Gianni. Gianni, devi stare un po' più su di entusiasmo. Un po' più su di entusiasmo è stato questo sportivo, questo calciatore, che negli anni 70, anni 80 è stato una sorta di meteora, che era partito fortissimo nel suo campionato in Inghilterra. Il Milan, lo dico con il cuore in mano ovviamente nei confronti dei milanisti, lo acquistò convinto che fosse un grandissimo campione, e così non fu. Lui si chiamava Luther Blissett, e divenne così famoso il suo essere famoso senza senso che venne preso il suo nome venne preso in prestito da diversi gruppi che in un modo o nell'altro raccontavano quella cosa lì, di essere famosi ma non conosciuti, tra cui un gruppo di scrittori bolognesi che adesso si chiama Wuming e prima si chiamava Luther Blissett. Questa, grosso modo, è la storia di Luther Blissett. Siamo nel 1975 e mentre Dario Argento dà alla luce il suo capolavoro, Profondo Rosso, e i Pink Floyd fanno uscire il memorabile Wish You Were Here, un giovanissimo Luther Blissett debutta in First Division a soli 17 anni, con la maglia del Watford. Luther diventa capocannoniere della Premier League, la Serie A inglese, con 27 reti, e viene anche convocato in nazionale, diventando così uno dei primi giocatori di colore a vestire la gloriosa maglia della nazionale inglese. In nazionale riesce a segnare addirittura una tripletta contro il Lussemburgo, ad una delle sue prime apparizioni. Ma questi sono i suoi primi e unici gol con la nazionale. Nelle sue successive presenze non brilla e fallisce di partita in partita. Intanto in Italia il Milan, neopromosso in Serie A, è in cerca di una punta per tornare subito ad alto livello. E il direttore sportivo Ramaccioni individua proprio nel 24enne Luther Blissett la soluzione al problema. Al giovane inglese di origini giamaicane viene riservato un posto di tutto riguardo, addirittura nella copertina del famigerato album Panini. Difatti soltanto 8 giocatori, fra cui Platini, Falcao, Zico, D'Urseo e per l'appunto Luther Blissett, hanno l'onore di rimanere. Purtroppo le sue prestazioni in maglia rossonera sono per tutto il corso del campionato molto al di sotto delle aspettative, tanto da scomodare uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani di tutti i tempi per dargli un soprannome. Gianni Brera infatti lo ribattezza Calonnisset, visto che gli ricordava il principe di tutte le occasioni dei gol fallite, vale a dire lo sciagurato Egidio Calloni. Blissett gioca tutto il campionato ma riesce a collezionare solo 5 gol, una marea di occasioni sbagliate, prestazioni opache e le antipatie dei tifosi rossoneri, perché con qualche gol in più probabilmente il Milan sarebbe andato oltre al sesto posto di fine campionato, che lo esclude completamente anche dalla Coppa UEFA. Alla fine del campionato Blissett torna in Inghilterra, continua a giocare a buoni livelli per una decina di anni. Poi, nel 1993, dopo aver cambiato 3 squadre in pochi mesi, appende le scarpette al chiodo e si dedica alla carriera di allenatore. Nell'aprile del 2007 Blissett dà una brusca sterzata alla sua vita e fonda una scuderia automobilistica, la Team 48 Motorsport, con l'obiettivo di riuscire a qualificare il team per la 24 ore di Le Mans. Se avete dei figli probabilmente saprete di cosa si tratta quando si parla di recita di Natale, soprattutto se vanno dall'asilo in avanti. Se siete stati figli lo sapete altrettanto, e quindi magari in questi giorni avete una recita di Natale del vostro figlio o di un vostro nipote. Se non ce l'avete, sia che ce l'abbiate, sia che non ce l'abbiate, domani sera tenetevi liberi, perché alle 21 quindi alle 9, qui presso la sede di Radio 24, nella Sala Collina, che è la grande sala sotto la collina di Renzo Piano, con le piante, gli alberi e le siepi, si tiene la recita di Natale di Chiedo Asilo, che è il programma che va in onda esattamente dopo il nostro, quello con K e Drago. Il titolo della serata è Babbo Natale esiste, e c'è tutto il cast di Chiedo Asilo, quindi K, Drago, il bambino Alberto e tutto il resto, mi scrivono anche gli alberi e le renne. Quindi per prenotarvi semplicemente mandate una mail a chiedoasilo@radio24.it, il tutto entro adesso più o meno, perché la recita è domani sera, quindi no, avete tempo anche domani, perché poi allora quando sbaglio le robe istituzionali poi mi cazziano. Avete tempo, secondo me, credo, fino a domani. Non me l'hanno detto fino a quando avete tempo, però quando vi realizzate che potete venire, mandate una mail chiedoasilo@radio24.it. grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. L'ultimo messaggio di oggi è di Dario, che mi dice: io parto sempre benissimo, succede tutte le volte che inizio un disegno, la spinta è adrenalina pura. Poi i pesi si bilanciano e si fanno i conti con i propri limiti. Ciò che pensiamo non sempre ci appartiene. Quello che facciamo è tremendamente nostro. La sera di oggi era quella di Guglielmo, parlava delle buone partenze. Quella di domani è di Brunella e parla di ribellioni. Avrei dovuto parlare del tempo o delle abitudini alimentari del mio paese, lo so. Invece chiesi di raccontarmi dei giorni delle barricate, di Tiananmen. Cadde il silenzio. Poi Jan cominciò a parlare. E di colpo si fece di nuovo il silenzio. Era arrivato l'ospite necessario, quello non desiderato. Sembrava il bambino spione che tutti abbiamo incontrato a scuola e che un giorno ritroveremo sul lavoro o altrove. Lui scoppiò a ridere, sicuro di aver interrotto una conversazione proibita. Io presi coraggio e dissi: parlavamo dei fatti della primavera scorsa. Lui rise ancora e aggiunse: quale fatti? Quale primavera?